Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Sembrava un matrimonio impossibile. Quando gli exit poll e poi i dati ufficiali fotografarono a febbraio l'immagine di un paese lacerato, diviso, incapace di trovare una soluzione politica alla crisi di questi anni, tutto sembrò sprofondare. La legge elettorale che ormai tutti conosciamo, definita una porcata dal suo stesso creatore, permise al Partito Democratico, reduce di una vittoria di misura alla Camera, la maggioranza assoluta a Montecitorio, ma non gli garantì lo stesso risultato al Senato, paralizzando di fatto le Camere. Dopo settimane di tentativi di abboccamento con il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che però rifiutò categoricamente e con parole non troppo gentili ogni proposta di alleanza, e dopo la nomina da parte del presidente Napolitano di una commissione di saggi, con le elezioni del nuovo presidente della Repubblica, che è stato anche il vecchio, si consumarono in casa PD le idi di marzo. Prima la bocciatura di Franco Marini, poi il parricidio di Romano Prodi. E infine, dopo la presa di responsabilità da parte di Napolitano che accettò la ricandidatura, in pochi giorni quello che sembrava un matrimonio impossibile divenne possibile: la nascita del governo Letta. Un governo che si trova adesso, in queste settimane, a dover operare in un contesto a dir poco drammatico. Nonostante l'Italia sia stata promossa e sia stata tolta la procedura di infrazione che pendeva nel nostro capo da 4 anni, la luce in fondo al tunnel della crisi sembra non vedersi più, anzi pare proprio che il tunnel si stia allungando. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Il precetto evangelico della carità illumina i cristiani sul significato più profondo della convivenza politica. Per renderla veramente umana, non c'è niente di meglio che favorire il senso interiore della giustizia e benevolenza e del servizio al bene comune, e corroborare le convinzioni fondamentali sulla vera natura della comunità politica e sul fine, sul legittimo esercizio e sui limiti dell'autorità pubblica. L'obiettivo che i credenti devono proporsi è la realizzazione di rapporti comunitari fra le persone. La visione cristiana della società politica conferisce il massimo rilievo al valore della comunità, sia come modello organizzativo della convivenza, sia come stile di vita quotidiano. È con noi in collegamento Giorgio Santini, già segretario aggiunto della CISL e ora senatore della Repubblica per il Partito Democratico. Grazie per essere con noi, senatore. Sì, grazie a voi, buongiorno. Nel pomeriggio di quel ormai famoso lunedì 25 febbraio, molti esponenti del suo partito si dichiararono pronti a tornare alle urne anche il giorno dopo, e sappiamo tutti poi cosa è successo in questi mesi. Il risultato non è più un governo tecnico, ma è un governo politico, supportato però dalla stessa maggioranza che sosteneva il governo Monti. Cos'è cambiato dal giorno prima al giorno dopo della rielezione di Napolitano? La direzione di Napolitano è stato il momento conclusivo di 60 giorni complicatissimi, come tutti ricordiamo, frutto di un esito elettorale che non permetteva nessun'altra soluzione se non l'alleanza delle forze principali. Si è detto appunto 3 grandi minoranze che non erano nessuna in grado da sola di governare. Alla fine, dopo dei tentativi per cercare di congelare i voti e la disponibilità al Movimento 5 Stelle, con l'elezione di Napolitano si è nei fatti realizzata l'unica possibilità parlamentare possibile, cioè un governo dei principali partiti, quindi il PD da una parte, Scelta Civica dall'altra e poi il PDL. E quindi diciamo che nasce questo governo esattamente per volontà, potremmo dire, degli italiani, anche se volontà espresse in maniera contrapposta. Alla fine, data l'emergenza e data la necessità comunque di dare un governo al paese, nell'impossibilità di tornare a votare con la stessa legge, perché sarebbe stato identico l'esito paralizzante, responsabilmente, sulla spinta di Napolitano, si è deciso di fare un governo di questa natura, con l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza e di provare a fare le riforme istituzionali e politiche assolutamente necessarie. Devo dire, fa una certa impressione per chi segue tanto i media, vedi i dibattiti politici, vedere da un giorno all'altro Quagliariello, Orlando, Franceschini andare tutti d'accordo ed essere seduti tutti uno a fianco all'altro sugli scranni di Montecitorio di Palazzo Madama. È possibile che questa fase permetta in qualche modo di porre fine a quella che alcuni hanno chiamato la guerra di 20 anni tra berlusconismo e anti-berlusconismo, una contrapposizione tra due parti, tra due blocchi granitici, che ha in qualche modo avvelenato il clima in questi 20 anni, deviando anche dai problemi del paese a volte? Ecco, esattamente, io partirei da questa ultima sua frase. È necessario per soprattutto perché siamo in una fase di veramente di emergenza. Siamo al 5º anno di crisi, i dati dell'occupazione e anche ormai del degrado sociale sono evidentissimi, la paralisi politico-istituzionale è ormai in corso da anni, quindi noi dobbiamo, se vogliamo fare il nostro dovere, proprio la nostra responsabilità, direi anche il nostro senso etico di politici, lasciar perdere quello che è stato nei 20 anni precedenti. In questo momento, al di là di pacificazione o non pacificazione, sono termini sempre molto impegnativi, deve prevalere il senso di responsabilità verso il paese. Quindi il PD rimane il PD, il PDL rimane il PDL, però trovano, a mio avviso, anche in modo competitivo, positivamente, per chi ha idee migliori, trovano un punto di incontro sul fatto che bisogna rispondere a queste gravissime emergenze. Io penso che il voto degli italiani, così travagliato, così anche difficile da interpretare, è proprio il frutto ormai della necessità di dare risposte. Gli italiani non hanno avuto queste risposte in questi anni, le hanno cercate con il voto in maniera anche disordinata, in maniera, abbiamo visto anche fuori, con l'antipolitica. Allora bisogna rispondere adesso a questi problemi: il lavoro, l'economia, la politica che abbia un ruolo più sobrio, più di servizio, meno di privilegio e di clientela, e queste cose bisogna farle. Il governo sta tentando di farle, questo può accantonare veramente un ventennio che sicuramente non è stato positivo per il paese. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo, onorevole. Il bene di tutti, parliamone. Yeah. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori del Bene di Tutti Parliamone, siamo in collegamento con Giorgio Santini, già segretario aggiunto della CISL e ora senatore per il Partito Democratico. Stiamo parlando di larghe intese, qualcosa che fino a due o tre mesi fa sembrava assolutamente impossibile e che ora si è concretizzato con il governo Letta. Grazie per essere con noi, senatore. Grazie a voi, buongiorno. Come concretamente delle persone che si sono fatte la guerra si siedono davanti a un tavolo e affrontano i problemi del paese insieme come una squadra e non come di nemici giurati? Con un senso di responsabilità. Se possiamo mutuare due termini che non sono propriamente della politica, cercando di cooperare al massimo per realizzare gli obiettivi di riforma e soprattutto la necessità di dare risposte ai temi dell'economia e del lavoro che sono i più pressanti in questo momento, e dall'altro anche con uno spirito competitivo. Io credo che una coalizione non escluda che dentro la coalizione si discuta anche con idee diverse, con idee migliori, con idee appunto articolate, sempre per dare dei migliori risultati. Per esempio, noi abbiamo in questo momento la necessità di ridurre la tassazione, allora va ridotta a tutti, quindi anche a chi sta bene, o va ridotta solo a coloro che stanno davvero male, ed esempio al mondo economico e delle imprese, che riducendo la tassazione può avere un effetto moltiplicatore per il lavoro. Questa è una competizione che dentro un governo di larghe intese non solo è giusta, ma può essere addirittura virtuosa, perché alla fine porta a dei risultati migliori. Quindi cooperazione, perché si è nello stesso governo e si va avanti, diciamo, per il bene del paese, ma anche sana competizione di idee e di proposte per cercare di fare davvero il meglio possibile in una situazione che, come sappiamo, ci dà margini molto stretti, ci sono pochi soldi, pochi margini, anche nonostante adesso siamo fuori dalla procedura di infrazione europea, ed è davvero necessario che tutti diano il meglio per cercare di estrarre da questa situazione quanto di più positivo si possa fare per il paese, ripeto, sul lavoro, sull'economia e sul versante politico, per fare finalmente le riforme. La priorità di questo governo è sull'economica, ci sono anche le riforme. Cosa è chiamato a intervenire per migliorare il paese, non solo dal punto di vista dei numeri? Ecco, appunto, sicuramente c'è il tema, come dicevo, disoccupazione, disoccupazione giovanile, disoccupazione anche purtroppo degli adulti, e quindi necessità di individuare attraverso la ripresa dell'economia. Qui ci sono molti provvedimenti in corso, con la legge che finalmente restituisce i crediti, diciamo, che le imprese vantano in misura enorme dalla pubblica amministrazione, sono 40 miliardi, ne mancano altri 40 e nel giro di un anno o due vanno sicuramente rimessi in circolo in modo tale che diano una spinta all'economia. È stato fatto un intervento per rifinanziare la cassa integrazione, si vorrà ridurre la tassazione sugli immobili, ma noi diciamo, avendo soprattutto attenzione alle famiglie più deboli e a rimettere in moto anche il sistema, diciamo, delle imprese, sia commerciali, sia industriali, sia rurali. Si dovrebbe cercare di rinviare l'aumento dell'IVA previsto dal 1° luglio, andrebbero prorogati gli incentivi per chi ristruttura casa e per chi fa interventi di risparmio energetico. Insomma, ci sono vari interventi che, aiutando l'occupazione direttamente, i giovani, e aiutando le imprese e quindi l'economia, debbono rimettere in moto la macchina. E poi c'è la priorità anche della politica. Due giorni fa è stato finalmente varato un percorso che cambierà la Costituzione, quindi ci sarà il superamento del bicameralismo, ridurremo quindi avremo solo una Camera legislativa, il Senato diventerà il Senato delle autonomie. Questo vuol dire dimezzare anche il numero dei parlamentari, semplificare moltissimo il processo legislativo e quindi indirettamente anche tutta poi la struttura istituzionale, le province, la ripartizione anche troppo frammentata dei comuni, insomma tutta un'area istituzionale, e poi cambieremo anche il sistema elettorale, perché, come sappiamo, con questa legge produce solo instabilità e paralisi. Quindi queste sono le priorità, sono molto impegnative. Ci vuole un governo che sappia cooperare, ma che sappia anche tirar fuori idee e grinta per riuscire ad affrontare seriamente questi problemi. Non è propriamente un governo di unità nazionale, perché ci sono delle opposizioni. Da una parte i vostri alleati di SEL, di Sinistra Ecologia e Libertà, non vi hanno seguito nella strada del governo, dall'altra la Lega e Fratelli d'Italia in maniera molto meno traumatica per quello che riguarda la destra, e poi c'è questo convitato di pietra che è il Movimento 5 Stelle. Quale sarà il ruolo delle opposizioni in questi mesi, in questi anni che ci sono davanti? Ma intanto se dobbiamo ovviamente dire con chiarezza che in democrazia l'opposizione è assolutamente legittima, quindi non siamo nella assoluta regole democratiche che prevedono appunto alleanze, prevedono anche maggioranze e opposizioni. Noi stiamo vedendo in Parlamento in questo momento, per quanto riguarda le diverse opposizioni, comportamenti molto diversi. Diciamo che sia la Lega sia SEL sono più sul verso, essendo diciamo ex alleati o alleati anche delle forze che sono al governo, sono su atteggiamenti diciamo di opposizione però collaborativa, prevale largamente e spesso l'astensione da parte di questi, il voto contrario è rarissimo. Il Movimento 5 Stelle invece, soprattutto per credo le volontà del suo promotore, insomma di Grillo, è in una fase molto confusa. Nei dibattiti collaborano, nelle discussioni anche parlamentari, anche con idee a volte interessanti. Al momento del voto scatta un meccanismo sempre diciamo di schieramento e di logica di gruppo, di votare rigidamente contro. Una situazione a mio avviso in evoluzione, tra l'altro ci sono anche segnali di forti di valutazione all'interno. Vedremo cosa succederà. Io credo che se c'è qualche buona idea anche dall'opposizione è bene possa contribuire. Abbiamo 30 secondi. Questo governo in che modo potrà riaffermare il valore della politica come servizio e, come ha detto prima, non solo come oasi di privilegi per pochi eletti? Questa era per me la sfida decisiva, perché nel voto di febbraio c'è stata soprattutto la rottura del rapporto tra cittadini e politica. Lo dobbiamo ricostruire. Per ricostruirlo spetta alla politica, con umiltà e con generosità, di dare agli italiani l'idea che sia ancora una sede in cui si possono affrontare i loro problemi, trovare le risposte possibili, recuperare quello spirito, appunto dicevamo, etico di servizio, mettendo da parte tutta la serie infinita di privilegi, ma soprattutto di casta chiusa, insensibile ai messaggi e soprattutto ai bisogni della società. Se facciamo questo, la politica torna a essere, come spesso diciamo, la politica eticamente ispirata con la P maiuscola, espressione come dire breve, ma che dà l'idea anche di un senso nuovo, di prospettiva e spero anche di futuro migliore. La più alta forma di carità, come diceva Paolo VI. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, la settimana prossima per un'altra puntata de Il Bene di Tutti Parliamone. Potete riascoltare questa e tutte le altre puntate sul sito di Blu Radio Veneto. Potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Andrea Cantone vi saluta, alla prossima. Avete ascoltato Il Bene di Tutti Parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.